Infatti, purtroppo, con una spinta nella sola, ma piano, se cerne sangue dal nasale, se col gomito fai boom, ci ha sbiancato, smetta a piangere, che donna è, ma c'è il cannate, eh? Una donna non capisce, ma essere goccia, se gli è brucio il motorino, corteggiando si capisce, le butti a borsa in mezzo alla strada, quando passa il 23, ci ha sbiancato, chiama madre, che donna è. Invece tu, oh tu, sei una modella, modella. Fiore dal secchio per te, rollo le canne coi piedi per te. Non sei donna, sei modella, sei di più, di più. Ma che sta scherzando? Quando che mi sento solo, te credo star bagno. Guardo la tua fotografia, faccio un assolo de Bus Jordan finché invia la polizia. Razziali, questa qui è la donna mia. Infatti tu, oh tu, sei una modella. Lavo entrambe le ascelle per te, rollo le canne col ketchup per te. Non sei donna, sei modella, sei di più. Infatti, infatti, purtroppo tu, oh tu, sei una modella. Modella, modella, modella. Un fiore dal secchio per te, rollo le canne coi piedi per te. Sei donna, sei modella, sei di più, sei di più. Ma che me sta piante cu. Non sei donna, sei modella, sei di più, di più. Quanto ci vuole questo? Va bene, no, eh! Oh, sta per te, lo posso vedere? Lo posso vedere, dai! Ma guarda qua per caro, dai!